Cari amiche, cari amici, benvenuti, benvenute, soprattutto bentrovati. Martedì ai microfoni, martedì sera, 8 maggio. Domani festeggiamo qui a Bruxelles la dichiarazione Schuman, quindi è sempre bello ricordarlo, questa data effettivamente importante che poi ha inciso su quella che è stata lo sviluppo della nostra storia, di questa storia europea che è anche un po' la nostra storia, di questa generazione, così come alcuni l'hanno chiamata, che è un po' l'eurogenerazione, che vive di Europa e che sogna un'Europa migliore. Ovviamente noi con questo auspicio festeggeremo domani questa festa molto importante. Saluto Dani M in regia. Buonasera a tutti. La nostra Fiordaliso. Buonasera. Salutiamo il nostro Giorgetto che è impegnato questa sera per lavoro, quindi caro a costruire Giorgio, l'Europa. Lui sta costruendo, insomma, fa parte di questo meccanismo di costruzione. Sì, in realtà sta è lì con la cazzuola, sta costruendo l'Europa, sta mettendo col cemento, vero? Ciao Giorgio. Sì, diciamo di sì, diciamo che possiamo dire proprio così, perché l'argomento di cui si sta occupando questa sera è abbastanza attuale, quindi quando c'è di mezzo l'attualità ovviamente ogni tematica diventa di difficile gestione. Io saluto tutti i nostri amici all'ascolto, saluto anche tutti coloro i quali continuano a scriverci. Mi scuso se ancora non la nostra redazione non ha potuto rispondere a tutti, ma vi assicuro che entro la fine di Bruxellando avrete tutti la meritata risposta. Questa sera è una puntata effettivamente particolare, abbiamo un ospite, prima parlavamo di costruzione, lui ci potrà dire qualcosa anche in questo senso metaforico di costruzione. Prima di passargli la parola ricordiamo un paio di eventi. Prima voglio ricordare che sabato prossimo, quindi sabato 12 maggio, ci sarà la giornata europea, quindi potrete visitare il maggior numero di istituzioni come il Parlamento, il Consiglio, il Comitato Economico e Sociale, il Comitato delle Regioni e credo, Imola correggimi se sbaglio, anche il Berlemont, sede di molte direzioni generali, nonché sede anche dei gabinetti dei commissari. Potrete visitarle dalle 10 alle 18, quindi questo mi sembra essere veramente un invito a partecipare, perché per quanti non avessero ancora visitato le istituzioni e il Parlamento in particolare, insomma, essere lì nell'emiciclo del Parlamento vi posso assicurare che è un'emozione assolutamente da vivere. Invece domenica 13 maggio, per ritornare un po' più sull'aspetto musicale, è qui a Bruxelles, ritorna con estremo piacere Vinicio Capossela. Noi avremo anche la possibilità, l'opportunità di intervistare Vinicio. Vinicio ha appena praticamente lanciato un nuovo album, scusate non mi viene la parola esatta, Marinai, Profeti e Balene, e quindi sarà al Teatro San Michel dalle ore 9, ma le porte saranno già aperte dalle 19:30. Per informazioni e biglietti baitlive.com. Questa sera mettiamo anche a disposizione due biglietti per il concerto di Vinicio, quindi per quanti fossero all'ascolto, come già annunciato precedentemente, ci sarà una semplicissima domanda a cui rispondere per poter avere la possibilità di assistere in qualità di ascoltatori di Bruxellando e di Radio Alma al concerto. Ringrazio la libreria Piola, la quale ci ha messo a disposizione i biglietti per la serata. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci possono contattare allo 02 345 2656 durante l'orario della trasmissione, quindi fino alle 9 meno 3 minuti, per rispondere a questa semplice, spero per loro, domanda e ottenere i due biglietti. Sì, io suggerirei di chiamare un po' prima delle 20:57, perché poi altrimenti c'è la sigla di chiusura e quindi magari perdiamo anche la possibilità di poter attribuire il biglietto. Quindi precipitatevi, non posso dire siete numerosi, ma i primi due che ci chiameranno avranno la possibilità quindi di avere questa possibilità. Quindi due brevissimi altri eventi da ricordare. Ritorna, come sempre, siamo già a maggio e veramente il tempo è veramente tiranno, il Festival delle Arti. Questo è uno dei festival che io più adoro qui a Bruxelles, perché ci sono tante le arti che si ritrovano, c'è la musica, la danza, il cinema, le arti plastiche, tutte le loro possibili combinazioni. Quindi, come sapete, quando si parla di arte mai limitare l'arte, perché il bello dell'arte è proprio quello che riesce sempre a stupirci. Quindi sono tante le creazioni che vi aspettano proprio a Bruxelles, a Quai du Commerce 18 1000 Bruxelles. Il sito internet è kfda.be, ovviamente seguito da questo www, ma ormai insomma questo è abbastanza nota. Il prezzo è di 16 euro, invece per quanti acquistassero il Festival Pass la tariffa ovviamente diventa più conveniente. Gli orari di apertura sono tra le 11 e la mezzanotte tutti i giorni, quindi non ci sono differenze tra i giorni feriali e quelli festivi, e questo fino al prossimo 26 maggio. Quindi veramente, per quanti ancora non l'avessero visitato, vi suggeriamo calorosamente di partecipare, perché ne resterete stupiti. Invece restiamo sempre sull'arte, questa volta parliamo del concorso musicale internazionale della Regina Elisabetta, che come sapete è uno degli eventi che pure ritorna ogni anno. Quest'anno poi è un anno di quelli tondi, no? Un anno di quelli che fa più piacere ricordare, perché è il 75esimo anniversario di questa di questo evento, che ricordava quelle che erano le abilità della regina Elisabetta. Infatti l'evento nasce proprio nel 1937 e l'idea era proprio della regina Elisabeth, la quale decise di creare un concorso proprio per aiutare i giovani violinisti. Questo avrà luogo al Conservatorio Reale di Bruxelles, che è a Rue de la Régence, e altri eventi invece al Palais des Beaux-Arts. Le orari di apertura sono invece tra le 20 e la mezzanotte. Dal 30 aprile, quindi è già cominciato da qualche tempo, tra l'altro tra le semifinali c'è anche un belga, quindi insomma giovanissimo tra l'altro, ma mi è sembrato estremamente convinto. Tra l'altro il padre, ora mi sfugge il nome, non lo ricordo più perché non è un nome propriamente belga, e tra l'altro suo padre era già arrivato terzo, sua nonna quarta, quindi immagino anche la tensione con la quale lui stesso parteciperà alla manifestazione. Comunque in bocca al lupo a tutti i partecipanti, e come diceva qualcuno, che vinca il migliore. Passiamo invece al nostro ospite della serata. Io sono molto felice di averlo qui in radio. Come sapete, a Bruxellando parliamo molto spesso di autori, ne incontriamo tanti, sia dal vivo, così come ci capita questa sera con Paolo, sia al telefono dall'Italia. Sapete anche che Bruxellando propone tanti suggerimenti di lettura, e questa sera io non posso che raccomandare a tutti i nostri amici all'ascolto Golden Boots di Paolo Nelli. Paolo, benvenuto. Grazie, ciao a tutti. Tra l'altro Paolo arriva direttamente da Londra, quindi io praticamente sono ancora più grata di questa sua presenza qui in studio piuttosto che telefonica. No, infatti, perché abito a Londra e l'occasione era buona, perché non conoscendo Bruxelles mi sembrava che fosse il caso di venirci. Tra l'altro si è portato un po' di sole, quindi di questo ti siamo doppiamente grati, perché fino a ieri le temperature erano estremamente fredde per un periodo primaverile come quello di maggio. Invece oggi ci hai portato un necessario ed importante raggio di sole. Paolo, è la prima volta che sei qui a Bruxelles, so che Golden Boot non è la tua prima fatica letteraria, però per presentarci ai nostri amici ascoltatori, ci racconti un po' di te? Raccontare di me, sì, che abito a Londra, questa è la prima cosa che posso dire, quindi sono anch'io un italiano espatriato, e di me sinceramente non ho molto da dire, se non che scrivo e qualcuno legge i libri che scrivo, e insegno e qualcuno ascolta le mie lezioni, quindi non ho una biografia credo molto, molto, molto interessante. Sono andato a Londra come tanti per una sorta di insoddisfazione dell'Italia forse, ma neanche dell'Italia, ma un'insoddisfazione mia, avevo bisogno di andare via, e mi sono trovato in questa città che mi ha adottato e mi sono trovato molto bene. Ma questo posso dire come introduzione di me stesso. Quando nasce invece la tua passione per la scrittura, e quali sono stati gli scrittori che maggiormente ti hanno influenzato? Guarda, la passione per la scrittura è nata come passione per la lettura, prima di tutto, e ho cominciato a leggere gli italiani quando, ma come tanti, da ragazzino, e il vero amore per la letteratura per me è stato illuminante leggere leggere García Márquez, leggere come tanti della mia generazione, è stato folgorato da non della mia generazione, scusate, anche della generazione precedente, però folgorato da Cent'anni di solitudine. Allora ho capito che cioè nella letteratura si potevano dire tante cose in tanti modi diversi. E da lì ho continuato a leggere col sogno di scrivere, però temevo di non esserne capace, avevo la paura del confronto, mi dicevo come, cosa puoi scrivere tu dopo che hai letto i russi, dopo che hai letto i grandi francesi, dopo che hai letto i sudamericani, dopo che hai letto anche alcuni italiani, dopo che hai letto Aldo Busi. Io ero un grande appassionato di Aldo Busi a quel tempo, dicevo io non è che posso scrivere dopo queste persone. Ma quando ho cominciato poi a mettere insieme dei racconti, il primo racconto terminato, ne cominciavo tanti, ne finivo pochi, quando ho finito il primo non ho mai smesso. Credo che è stato determinante leggere autori italiani come Tondelli, per esempio, che li trovavo come, non so, era un po' come il fratello maggiore, colui che un po' lo prendi come ti ispira ma non è tuo padre, quindi non devi combatterlo ma puoi anche imitarlo. E mi sono reso conto che potevo scrivere anch'io in un modo che poteva essere simile a quello ma più mio, e da lì poi ho trovato il mio stile, che io trovo assolutamente c'è uno stile, c'è un carattere e soprattutto c'è una personalità, e questo è quello che poi è l'elemento che più mi ha colpito di tutto il romanzo, proprio perché sono tanti gli scrittori che scrivono, sono tanti coloro i quali riescono anche a pubblicare, però vi assicuro, quando leggerete Golden Boot, in quel libro troverete diverse anime che sussurrano, anche messaggi, che distribuiscono aneliti, e ce n'è per tutti. Ci sono gli adolescenti, ci sono gli uomini maturi, ci sono diverse anche figure femminili che Paolo è stato bravissimo a raffigurare. Golden Boot, già il titolo, insomma, stivale d'oro, e sulla parola stivale magari torniamo più tardi. È ambientato però nel Far West americano. Come mai da italiano questa scelta un po' azzardata o comunque inusuale di un ambiente in ogni caso estraneo, almeno da un punto di vista della letteratura, perché i film poi insomma ci hanno un po' inseguito nel tempo, come mai quindi una scelta così insolita? Guarda, prima ti rispondo una cosa a quello che stavi dicendo precedentemente riguardo allo stile, e una cosa che posso dire di questo libro riguardo allo stile rispetto ai miei precedenti è molto consapevole, nel senso che prima di mettermi a scrivere questo romanzo intanto avevo avuto la tentazione di scriverlo in inglese, poi ho abbandonato perché scrivere è già una fatica, in inglese era una faticaccia, e quindi ero molto consapevole di dover trovare uno stile che fosse adatto a una situazione insolita, appunto come quella dici tu, come hai detto, del Far West. L'idea del Far West non è nata perché io sia o perché prima lo fossi un cultore del genere West. Intanto in italiano, nonostante la grande tradizione cinematografica, non esiste una tradizione letteraria West, quindi non avevo in questo caso padri a cui rifarmi. È nato veramente per caso, è nato parlando con un regista di origine indiane dell'Asia, e però nato in Inghilterra, che diceva che lui voleva fare un film western. A me sembrava la cosa più paradossale del mondo che un regista inglese, indiano, volesse fare un western. Mi sono chiesto se io da italiano fossi capace a scrivere un libro questo, quindi è nata veramente come una sfida personale, e l'idea è spuntata dal nulla. Io potrei dirti passo per passo come dall'idea si è sviluppato questo, non lo faccio perché sennò annoierei tutti, ma no, perché non abbiamo abbastanza tempo, no? Perché okay. Cioè, annoieresti. E quindi è nato per caso, poi da lì poi per poterlo scrivere mi sono dovuto informare enormemente per avere del materiale su cui lavorare. Paolo, allora abbiamo già un ascoltatore o un'ascoltatrice, non lo so, in linea. Dani M mi fa un cenno dalla regia che, a proposito del messaggio che avevo lanciato precedentemente, quindi di un biglietto offerto proprio da Radio Alma per i nostri ascoltatori, abbiamo già qualcuno in linea. E l'idea, come sapete, mi piace, perché io renderei Brussellano davvero un po' più interattivo. Buonasera! Pronto? Buonasera, ben trovata, e sei stata rapidissima, velocissima. Abbiamo il piacere di parlare con Nadia. con Nadia. Bene, allora, come nasce la tua passione per Capossela? Raccontaci brevemente. Guarda, mi portò molti anni fa un carissimo amico a vedere uno spettacolo di Capossela. Io non lo conoscevo di nome, ma non l'avevo mai visto, e sono uscita da questo spettacolo veramente affascinata, perché mi sono accorta che è un artista, è veramente one man show, tutto in uno, fa tantissime cose insieme, sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista teatrale, e dà molta molta emozione e stimoli per pensare, e quindi l'ho trovato, mi ha colpito tantissimo questa scoperta. Saresti felice di partecipare al suo prossimo concerto qui a Bruxelles? Pronto? Ci senti? Pronto? Ecco, sì, adesso sento. Sì, di tanto in tanto, sai, qui l'emozione della diretta. Senti, quindi sarai felice di partecipare quindi a questo concerto? Certo, sì. Infatti ho appena letto che veniva a Bruxelles, ho detto questa è l'occasione per tornare a rivederlo e portare anche mio marito, e quindi assaggiare un po' di questa poesia. Perfetto, allora, per poter avere, diciamo, questo biglietto c'è solo una domanda alla quale dovresti rispondere. Sei preparata? Speriamo di sì. Di Capossela sei proprio tutto? Ho studiato, diciamo. Bene, allora la mia domanda è veramente facile. Qual è il titolo dell'ultimo album di Vinicio? Marinai, profeti e balene. Oh, bravissima! Applauso! Brava! Nadia, allora, potrai avere il biglietto omaggio, così come detto in apertura di trasmissione, recandoti alla libreria Piola e comunicando quelle che sono le tue generalità. Grazie, vi ringrazio tutti, Radio Alma, Mari, Dani, tutti quanti, grazie. Siamo noi che ringraziamo te e soprattutto continua ad ascoltarci. Certo. Buona serata, ciao. Buona serata, ciao, grazie. Ed eccoci qui, insomma, la prima domanda è andata, quindi insomma ringraziamo Nadia, la ringraziamo anche per la rapidità. Prima di questa breve parentesi vi ricordo che siamo in compagnia del nostro amico Paolo Nelli, autore di Golden Boot, un romanzo davvero affascinante ambientato nel Far West americano. Paolo, noi siamo qui a Bruxelles. Bruxelles è una città di crocevia, insomma, è una città dove vivono tante anime. Ci sono 27 stati membri solo ufficialmente rappresentati, più tutto quello che ruota intorno a questa capitale abbastanza dinamica. Ecco, come dice la nostra Imola. E nel tuo romanzo ci sono pagine effettivamente molto toccanti, molto belle, di stranieri, chiamiamoli così per rendere proprio il significato profondo della parola, che si ritrovano loro malgrado a vivere in questo villaggio che potrebbe essere uno qualunque dell'America di allora, a vivere un sogno, a rincorrere un sogno che è poi quello dell'oro. Secondo te, quanto questa dimensione, che è veramente così nitidamente espressa in queste tue pagine, nasce anche dalla tua esperienza di espatriato, in questo caso a Londra, noi siamo qui a Bruxelles? Ma probabilmente mi sono chiesto anch'io questa cosa, se fossi stato in Italia probabilmente non avrei mai scritto questo romanzo, per motivi anche pratici, appunto, perché non avrei avuto lo stimolo di parlare con una persona che mi diceva certe cose. E poi il fatto di poter parlare... di una distanza, perché mi ha stupito anche a me, comunque, quando facevo ricerche, di vedere come erano paesi che sorgevano nel nulla con persone che venivano dai posti più disparati. Erano molte le persone di colore, c'erano già i cinesi, c'erano i tedeschi, c'erano gli olandesi, c'erano anche gli italiani, però in paesini minuscoli persi nel West più lontano. Quindi un mio personaggio dice che perché è rimasto a Golden Boot? Perché dice che è rimasto a Golden Boot perché Golden Boot per lui era il mondo intero, però gli dava la scappatoia del rimpianto, cioè un posto dove potevi, tu puoi stare, ma puoi sempre lamentarti che non sei in qualche altro posto. Ed è un po' la condizione, non so, di molte persone che sono a Londra. Io vivo quotidianamente, gli italiani a Londra siamo tantissimi e tutti siamo con un piede di qui, un piede di là, stiamo benissimi dove siamo, ma non siamo, abbiamo delle radici che non sono radicate, ecco, questo e quindi mi sembra molto, adesso non per dire che tutti siamo nel West, però sicuramente la tua domanda mi fa pensare che probabilmente di mio c'è questo senso di spaesamento qualche volta in un paese che sento mio ma non è il mio. No, effettivamente poi c'è anche un passaggio molto bello, se non sbaglio, proprio nel romanzo, che è poi detto da uno dei protagonisti, il maestro, in cui dice: in realtà io sono venuto qui sognando tante cose, in realtà questo paese potrebbe essere poi la rappresentazione di tanti altri, così è vagamente. Poi se tu ti ricordi la frase esatta, magari, e poi magari la cerchiamo, la cerchiamo, perché vale la pena citarla. Ma poi magari mi metto a cercarla, perché vediamo, credo che dica proprio una cosa tipo: intanto che cerchiamo la frase, abbiamo la seconda comunicazione. Io ho detto, i primi due ai più rapidi, quindi sono contenta di sapere che a Bruxelles ci sono tanti fan di... Al terzo gli regaliamo il libro, a questo punto. Al terzo regaliamo il libro, perché no, potrebbe essere un'idea. Buonasera. Buonasera, ciao. Abbiamo il piacere di parlare con... Paola. Oh, Paola, allora, noi ti ringraziamo di aver ovviamente di aver telefonato. E, grazie a te. Come annunciato in apertura di trasmissione, c'è la possibilità di poter vincere un biglietto per il concerto che avrà luogo il prossimo 13 maggio, e c'è una piccola domanda, diciamo, che dà poi adito al biglietto. Sei molto preparata su Vinicio? Sono preparatissima. Oh, due ascoltatrici ed entrambe donne, quindi vuol dire che Vinicio tutto sommato ha il suo sex appeal. Immagino. Ce l'ha. Senti, tu sai dove e quando è nato Vinicio? Vinicio è nato in Germania, ad Hannover, mi pare, nel 65. Oh, bravissima! Allora, sono preparata. Sei davvero preparata, quindi. Sì. Vinicio è nato ad Hannover, pensa che io non lo sapevo, lo ignoravo, quindi sì. Ho imparato qualcosa che non sapevo. Paola, potrai avere. È stato anche lui. È un expat anche lui, infatti dopo ci ritorniamo. Paola, potrai ritirare il biglietto recandoti presso la libreria Piola, già a partire da domani, e dovrai semplicemente lasciare le tue generalità, così che poi Jacopo potrà rilasciarti il biglietto. Perfetto. Noi ti auguriamo un ottimo concerto e soprattutto continua ad ascoltare Bruxellando. Grazie, certamente. A presto. Ciao, ciao. Bene, se chiamo la terza persona, allora lanciamo l'appello, regaliamo il libro di Paolo. Certo, sicuramente sì. Perché cioè, no? Potrebbe essere un'idea. No, mio personale, proprio, che ce l'ho in valigia, quindi, quindi con, lo metto a disposizione. Con dedica dell'autore. Non sono, non sono Caposella. Vieni qui in regia, ti faccio telefonare dalla regia. Dai. Grazie. Non so se ho il sex appeal di Caposella, voglio dire, questo spero, voglio dire. Cioè, c'è il sex appeal della scrittura, è quello. Ok, questo è consolante. Senti, il passaggio che dicevi è questo, e c'è un dialogo tra il maestro, che è uno dei personaggi, e il predicatore, che è un personaggio determinante, perché è quello che ha l'idea un po' balzana, ma che poi funziona, di portare Medea nel saloon. E quindi a un certo punto i due diversi tra loro diventano intimi, stranamente, e nella conversazione in cui si rivelano i propri passati, il predicatore questo dice, domanda al prete: maestro, disse il prete, in questo paese non arriva neppure il giornale della frontiera. La cultura vale meno delle falene che vanno a bruciarsi sulle lampade a olio. Perché un uomo della vostra levatura è finito qua giù? Il maestro si stimò la presa di tabacco che irritava le gengive, eccetera, eccetera. Vede, ho vissuto abbastanza per sapere che Golden Boot è il mondo intero. Ah, ecco. E ti concede la scappatoia del rimpianto, non è cosa da poco. Dio o il caso, reverendo, io non so cosa credere. E lo so, spiegare la mia presenza qui non è facile, ma più difficile, mi permetta, è spiegare la vostra. E questo è il passaggio che tu mi chiedevi. Io lo trovo straordinario, perché pensavo anche ad un'altra cosa, no? Parlavo con una mia collega che è arrivata recentemente a Bruxelles, e lei è norvegese. Ed è qui praticamente da meno di 3 mesi, e lei mi raccontava di essere molto entusiasta, soprattutto alla vigilia della partenza, di venire a vivere in questa città che non aveva mai visitato, e cioè Bruxelles. E proprio ieri mi diceva: ma sai, dopo 3 mesi mi sembra di essere qui da così tanto tempo, sono già entrata nell'ottica della routine, che sto già cercando delle alternative. Quindi vedi, cambiano i tempi, cambiano magari le prospettive, però poi c'è questo sentimento di familiarità che quando ti appartiene ti fa radicare anche sul territorio, quindi ti fa sentire tua la città, così come accade proprio ai tuoi protagonisti di Golden Boot. Sì, che poi, ma il fatto di essere stranieri, a me piace molto, tra l'altro, la sensazione di essere straniero in un posto, e ti dà sempre questa idea che potresti andare via e poi non lo fai, rimani, e quindi c'è questa doppia identità di uno che resta e di uno che vorrebbe magari andarsene. Io ci sto bene a Roma, lapsus. Questo è un lapsus, perché c'è la possibilità che devo andare a Roma, quindi c'è la possibilità che vai a Roma. Oh, c'è una terza telefonata. Allora, se sono per i biglietti di Vinicio, non ce ne sono più, mi dispiace. Se è per il libro omaggio di Paolo, allora poi ne possiamo parlare. E quindi, a proposito di personaggi, il tuo è un libro di contrasti, sei stato bravissimo, hai descritto tante figure maschili e femminili, ma in particolare nelle figure maschili ci sono proprio personaggi diversi. Parliamo di Chuck, per esempio, protagonista, che è un idealista, un sognatore, un romantico, e dall'altro poi c'è Clint Jr. Parliamo dei primi due contrasti, ovviamente per età, e Clint è invece esattamente il suo opposto. Ma tra i due, dove situeresti Paolo? Non sono mai stato un bullo nella mia vita da bambino, e avrei voluto esserlo, però ero sempre abbastanza rispettato, quindi forse ero un po' una via di mezzo. Farei fatica a definirmi chi dei due sono, però prima di provare a rispondere a questa domanda, direi che starei a ascoltarti più a lungo quando pare, perché dici delle cose bellissime sul mio romanzo. E guarda, in realtà c'è una cosa infantile, mi sono fatto una specie di psicanalisi personale del perché io abbia scritto questo romanzo, e te la dico segretamente adesso, perché secondo me segretamente la condividiamo con tutti i nostri amici all'ascolto. Io ho un ricordo infantile che a carnevale avrei sempre voluto vestirmi da cowboy, me ne ero dimenticato di questa cosa, però mia madre sempre mi rifilava questo vestito riciclato da fratelli maggiori, che era quello di Pierrot. Io mi ricordo che un giorno, per l'ennesima volta che ho messo questo Pierrot, vado a scuola, c'era Tiziana, la bionda ricciola di cui ero innamorato, che mi chiese ma di cosa sei vestito? E questo era una cosa che non si chiedeva a uno zorro, a un cowboy. Quindi io ho l'idea che sono cresciuto anch'io, questo romanzo di formazione mi sono formato io, sono diventato adulto, non mi vesto da cowboy perché non ho più bisogno, mi sono inventato un paesaggio intero, quindi sono un paese con tutti i personaggi, sono io stesso, qualcosa di me in tutti loro, per una rivincita contro la mia infanzia vissuta da Pierrot. Beh, Pierrot è un personaggio estremamente interessante, con la sua lacrimuccia. Esatto, che io sono una lacrimuccia dipinta di nero, tra l'altro, che non era neanche molto carina come lacrima. Beh, ti posso dire che quando ero piccola amavo molto la figura di Pulcinella, così mi faccio compagnia. Infatti mi ricordo che l'erudito della classe aveva detto, forse sei Pulcinella. È stato un azzardo, un napoletano della classe mi aveva visto come un Pulcinella. Bene, quando ero piccola la mia eroina preferita era ora mi viene un lapsus, vedi? Chi era la tua preferita? Della Senna, non mi ricordo più. Aiutami. Lady Oscar. No, non era lei, no. Candy? Candy era Santa Candy, no, ce n'era un'altra. Ma non può essere Heidi, non era Heidi, non poteva. La adoravo, mi verrà in mente, ci devo pensare, perché vedi, questa è la radio, ma ve lo dirò, devo giusto un attimo focalizzarmi ai miei ricordi di bambina. A proposito di figure maschili, poi ce ne sono altre due estremamente interessanti. Scusa, la stella della Senna. Eccoci qui. Ti ringrazio, Daniele. La stella della Senna. Sì! Ma tu, di questi personaggi maschili, da quale eri attratta, scusami? Beh, questo è facile. La risposta è molto facile. Daniele. Non vale, non sarà il romanzo questa sera, quindi posso dire qualcosa di diverso. Da Chuck. Ah dai, guarda, sì. Lì c'è sex appeal anche lui. Devo chiamarlo. Tantissimo, assolutamente. Lo chiameremo Chuck Vinicio. Chuck Vinicio. Chuck si gira. Che tra l'altro io con Vinicio abbiamo fatto la presentazione del suo libro a Londra. Io ho presentato il libro, cioè ho presentato, nel senso ho fatto con lui che faceva le domande a Vinicio Capossela a Londra, ero riuscito a invitarlo ed è venuto carinissimo a presentare il suo libro alla libreria di Londra con la quale collaboro. Hai visto quanti incroci infatti ci sono? Mari, ricordiamo al nostro pubblico che Brusselano avrà un'intervista in esclusiva. Brusselano intervisterà, sì, proprio Vinicio sabato, il giorno prima del concerto, e quindi sarà poi immediatamente sul web la domenica, quindi ugualmente prima del concerto. È una notizia di adesso, eh? Uno scoop di questo momento. È uno scoop di Diana e me. Però per ritornare alle figure maschili, la seconda figura che ovviamente pure ho gradito particolarmente è quella del maestro. Ma il maestro, devo dire che io ero molto affezionato da subito al maestro. Scusate, non ho mai parlato di un libro mio con questa cura per i personaggi, ma sono veramente un po' mi imbarazza anche parlare in questo modo, ma sono molto legato perché a questi personaggi. Se qualcuno mi chiedesse sintetizza il libro, io direi un libro di personaggi. E cosa vuol dire? Tutti i libri sono di personaggi? Non è vero, ci sono molti dove i personaggi sono troppo costruiti, troppo falsi, sono troppo succubi di chi li ha scritti. Io ho cercato di fare un libro dove i personaggi fossero riconoscibili, avessero una loro identità, fossero formati, ovviamente perché il libro ha uno span di 2-3 mesi, quindi ovvio che sono formati, non è che io volevo creare tutta... Tutti hanno... A ciascuno c'è un piccolo appiglio del passato, quasi a tutti. C'è una frase dove c'è qualcosa che si scopre del loro passato. E quindi è un libro di personaggi, io sono molto... al maestro ero affezionato, era il mio numero uno all'inizio, quello a cui volevo fargli delle cose intelligenti, invece poi è andato cambiando e non è così. Non è che è andato cambiando, è che tu l'hai integrato con la figura del reverendo. Forse sì. si sono un po' compensati, perché poi un po' è anche uscito di scena, ha perso la sua importanza, perché quando nel momento in cui al reverendo la sua relazione con Chuck viene meno, e viene meno anche lui nel romanzo probabilmente, quindi mi sono reso conto dopo che io stesso ci dedicavo meno spazio mentale a lui, perché era carino. Scusate, veramente, ma io avevo proprio i personaggi davanti a me, li avevo scritti davanti e li facevo muovere, perché erano proprio vivi per me, e sono sincero su questo. Ah, assolutamente, tra l'altro poi, sai, io credo che la scrittura abbia un dono, cioè che non riesca a mentire. E credo che laddove ci sia un sentimento... No, assolutamente. Laddove ci sia un sentimento, io penso che la scrittura non possa assolutamente nasconderlo. Ma c'è anche un'altra cosa, scusami. La scrittura non mente, perché quando una buona scrittura è lì ed è lapidaria. Quando si leggono delle cose anche di persone che ti scrivono, e tutti più o meno, non tutti, tanti vogliono scrivere, e quando tu devi spiegare perché una cosa... non va, la frase è sempre non funziona, e quando alla tua domanda gli autori che mi sono stati molto, molto utili sono stati quelli che ho amato e che ho cercato di in qualche modo di per esempio i dialoghi, tu mi dicevi che leggevi letteratura americana, io i dialoghi li ho imparati da Underwood di DeLillo, così, tanto per dirne uno. Ma perché erano talmente belli che ho detto, e poi subito dopo mi sono trovato che mi hanno dato il codice da Vinci, devi leggere, e lì ho detto ecco come non si deve fare un dialogo. Io vorrei vendere come il codice da Vinci, ma non vorrei mai scrivere un dialogo tanto brutto come li ha scritti lui. Vorrei vendere come lui, non sono ipocrita, anzi mi basterebbe un decimo di quello che vende lui. Però la scrittura non mente, se una cosa funziona è lì, bella, un dialogo c'è, funziona. Se non funziona, e tu che scrivi lo sai, o tagli o lo metti in mano agli altri, poi gli altri non è detto che capiscano che funziona o no, però per chi scrive è fondamentale saperlo. Ah, assolutamente. Tra l'altro, quello che io trovavo originale nella tua scrittura è stato un elemento anche abbastanza singolare. Ti ricordi, tempo fa ci fu un sondaggio, penso proprio in Inghilterra, perché ci fu un po' una polemica di un premio Nobel alla letteratura, il quale sosteneva che la scrittura maschile era facilmente riconoscibile, potevi riconoscere un autore maschio, scusa l'espressione, da un autore femmina. Poi invece i test hanno dimostrato che assolutamente non è vero. Perché dico questo? Perché non solo hai raccontato, se vuoi, i contrasti di questi spiriti maschili, no? Di queste tue figure maschili, ma ne escono molto bene anche le figure femminili, e ce ne sono tante. C'è Angela, quella più complessa, a cui poi fai interpretare E lì c'è poi, secondo me, un teatro nel teatro, si verifica un qualcosa di straordinario tra Angela e Medea. E ci sono figure poi magari meno complesse, c'è Florence, Rose, Berti o la stessa Dessa, che come sai è quella che, che prediligo, forse perché al contrario di me di poche parole. Eppure lì... Ma poche ma buone, ma tu ne dici tante ma buone, quindi voglio dire, dai, batti Dessa su questo punto. Magari ti do l'ispirazione per un altro tuo personaggio femminile, perché no? Eppure sono tutte donne fatali. In un certo senso. Ci vuoi dire qualcosa in più su questa tua conoscenza dell'universo femminile? Qui, aspettavo il silenzio che segue alla domanda, perché richiede una certa... Ma prendi il tuo tempo. Allora, intanto mi piace questa fatto dell'universo femminile, ma probabilmente intanto la letteratura non ha sesso, e la buona letteratura non ha sesso. E così come una frontiera, quello del distinguere che se sia donna o uomo una persona che scrive, mi sembra veramente, anch'io ho letto questa cosa, ho letto anch'io la cosa, mi sembra veramente paradossale. Non so, la mia conoscenza dell'universo femminile, spero che la mia compagna non sia all'ascolto, perché penso che siamo in streaming, si starà facendo un sacco di risate, perché probabilmente pensa che io ne capisca pochissimo. In realtà è questo il punto, è che intanto penso, per scrivere una certa capacità di attenzione ci vuole, conscia o inconscia, una capacità all'ascolto, più che all'ascolto una capacità a copiare, d'accordo? Io posso copiare una frase che tu hai detto adesso, un gesto che tu hai fatto adesso, senza capire il significato, però una volta che se lo so scrivere, perché un buon libro passa attraverso una buona scrittura, e un buon personaggio, se non è ben scritto, Oscar Wilde diceva che puoi fare tutte le buone intenzioni sociali che vuoi, ma se è scritto male, punto, non funziona. Questo lo diceva Oscar Wilde, quindi posso dirlo anch'io, un secolo dopo. E quindi se io ripeto qualcosa che tu hai fatto stasera, il modo con cui tu hai messo la mano sotto il mento, il colore dei tuoi occhiali, eccetera, eccetera, non è detto che io debba capire te, ma in quei gesti che io descrivo c'è la tua personalità. Se li descrivo bene posso anche non conoscerti, ma gli altri ti conoscerebbero. Credo che sia questa la mia capacità, se è tale, perché tu me la riconosci, di poter... Per me non c'è differenza tra un personaggio maschile o femminile. Angela per me era complicata perché aveva un problema grosso, e quindi aveva una difficoltà a dargli un peso psicologico. Me lo sono risolto così: fagli fare delle cose. E gli ho fatto fare delle cose. E gli hai fatto fare Medea, che le stava a pennello. Ha fatto fare, e l'ha fatta anche bene. Assolutamente. Quindi perciò lì dicevo, poi c'è il passaggio del teatro nel teatro. Ahimè, il tempo in radio è tiranno, e quindi siamo verso la fine. Come dicevamo proprio ancora in apertura. Nessuno ha telefonato per il libro gratis, quindi ma no, c'è ancora tempo fino alle 20:57, perché se chiamano sanno di disturbare la sanno la trasmissione, che voglio telefonare io. Senti, c'è anche un'altra peculiarità, e la dobbiamo raccontare anche in radio, che è un romanzo veramente congeniato nel dettaglio, cioè è stato veramente pensato, maturato, strutturato in un certo modo. E questo è un esempio che facevamo pure poc'anzi in libreria: c'è la scena iniziale e c'è la scena di chiusura, e tra le due c'è uno straordinario, come potremmo dire, c'è una resa dei conti, per utilizzare un po' il linguaggio magari del Far West. Questo è stato naturale, è stato spontaneo, oppure alla fine hai capito che effettivamente era come un puzzle che prende forma poi alla fine? Guarda, io penso che tu abbia detto il segreto della scrittura, o meglio, quello che io penso sia il segreto della scrittura, adesso non voglio suonare altisonante, ma la cura del dettaglio. Cioè, un romanzo funziona e un personaggio femminile funziona, e queste cose funzionano se tu gli curi il dettaglio. Per me era fondamentale che quando Angela preparava il caffè, io sapessi i quanti passi doveva fare, dov'era... E quindi il dettaglio, quindi, anche perché poi essendo nel Far West avrei qualcosa, non è casa mia, quindi la cura del dettaglio per me era fondamentale. Quello che hai detto tu è, secondo me, è il segreto perché una cosa possa funzionare. E poi la seconda cosa che hai detto, scusami, era sul... Vabbè, le due cose sono legate, no? La scena iniziale, ah, sì, cioè, sì, una resa, sì, dei, sì, conti, no? Sì, no, era un omaggio, un omaggio agli stivali, che fanno un po' da filo conduttore, come altre cose, si comincia con quelle e si finisce con quelle. Eh beh, sullo stivale ovviamente mi lasciamo solo riflettere, quindi senti, possiamo immaginare un Chuck trentenne tra qualche tempo? Facciamo due conti, lui aveva 15 anni, 30 anni, devo pensare che io ho 44, sì, devo aspettare che ne ho, sono troppo vecchio, no? Non lo so, spero di sì, guarda, spero di sì, spero di sì. Trentenne, faccio fatica a pensarlo trentenne, in effetti. Vabbè, quarantenne. Vediamo, il vecchio Chuck lo chiameremo. Cosa bolle in pentola? Ma riguardo ai libri, sto lavorando su un paio di cose, e penso che quest'estate... perché l'estate è il periodo in cui posso dedicarmi con maggior full immersion nella scrittura, penso metterò mano alle cesoie, e le cesoie sono dopo la prima scrittura, prendi le cesoie e cominci a tagliare un sacco di pagine, perché il libro funzioni, è un libro che probabilmente chiamerò o il pane quotidiano o il terzo giorno, credo che lavorerò su quello, che non è nel Far West ma è nella Brianza. Vabbè, questo è quanto dire, insomma, Paolo è capace di tutto, quindi io sono lì in attesa, anzi, se esprimo il desiderio, Chuck trentenne, mi piacerebbe leggerlo. Allora, ricordiamo ai nostri amici ascoltatori, Paolo Nelli, Golden Boot, edito da Fazzi, e con una squisita, se vogliamo, con uno squisito suggerimento di lettura di Simonetta Niannorbi, che pure è stata nostra ospite proprio due mesi fa, quindi noi ne approfittiamo per salutare anche Simonetta. Paolo, se vuoi restare con noi andiamo avanti ancora per una quindicina di minuti e ti ringraziamo comunque della squisita partecipazione. Grazie mille, un vero piacere. E speriamo di riaverti prossimamente nostro ospite con Chuck quarantenne. Amiche, cari amici, eccoci nuovamente qui. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Alma, Bruxellando 101.9, Mari V ai microfoni. Un saluto a Dani M in regia. Ricordo che per quanti volessero, c'è la possibilità di ricevere in omaggio il libro di Paolo Nelli che abbiamo appena presentato, Golden Boot. Per quanti fossero all'ascolto e volessero approfittare di questa straordinaria occasione della generosità anche di Paolo, vi ricordo che il numero al quale chiamarci è 02 345 2656, ripeto 02 345 2656. E ora io volevo fare George, ma siccome George non c'è, io non riuscirò mai ad imitarlo, George. Lee Brangolo, yeah, yeah, yeah. Alla Far West. Comunque, non posso aprire bocca, perché vabbè, mi si impasta. Alla Far West. No, quello lo facciamo fare a Paolo. Allora, stasera io vi ho portato un libro un po' science fiction, un po' fantasy, boh. Qua, fra le due, fra i due mondi, di un'autrice che conta un po' come quasi un classico del genere, che si chiama Ursula K. Le Guin, che ha scritto, per esempio, fra altri, un libro che si chiama Il mondo della foresta. E questo libro è abbastanza interessante, si tratta di un mondo che è tutto coperto di foresta, dove arrivano quelli della terra che hanno sfinito tutte le loro risorse, ma guarda, che sorpresa, e che stanno colonizzando degli altri mondi per poter ottenere, fra altri, anche il legno. Però io mi interrompo un attimino perché abbiamo anche una chiamata in linea e magari lascio la parola alla nostra ospite. Pronto, eccomi. Benvenuta, sei a Radio Alma, Brussellando. Lo sto ascoltando. Sì, lo so, però sai, la formula di rito è che è proprio questa qui. Abbiamo il piacere di parlare con... Maria. Maria, tu hai seguito la nostra intervista questa sera? Certo. Bene, allora la mia domanda è veramente semplice. Qual è il titolo del libro di Paolo? Il titolo del? Del romanzo di Paolo. Golden Book. Oh! Fantastico. No, applauso! Beh, sì. Era, ma questo non avevo capito che ci fosse. Sì, beh, sì, c'era una domanda, almeno una domanda, insomma, per dare anche un senso al, al regalo. Lascia quindi il tuo numero di telefono a Dani M. Domani la nostra redazione ti contatterà per stabilire le modalità di consegna del, del romanzo. Ricordami solo il tuo nome, così magari facciamo fare un autografo anche. Wow, fantastico. Maria. Maria, complimenti, l'avete presentato in modo molto molto intrigante. Avvincente, allora vedi, il messaggio è passato. Maria, tu da dove ci chiami esattamente? Da Bruxelles. Da quale dei comuni di Bruxelles? A Saint-Gilles. Ah, ecco, quindi insomma... Maria, per motivi tecnici ti chiedo di richiamare tra un minuto per lasciarmi le generalità. Ok, bene, perfetto. Maria, noi ti ringraziamo e ti auguriamo soprattutto un'ottima serata. Grazie, ciao. A presto, ciao. Ciao. Ecco, purtroppo non mi rimane il libro, però è questa la vita. Dai, mi devo accontentare dei, dei miei email librangoli, diciamo, delle mie letture. Allora, aspetta. A parte sì, il libro te lo presto io, ma non è quello il punto. Voglio dire una cosa a Paolo, perché Paolo è la prima volta che è qui a Bruxelles. Devi sapere che la nostra Fiordaliso... E tutti i martedì sera riesce ad incantarci con suggerimenti di lettura straordinari. Ma io sto seguendo con prima dove trovi il tempo, secondo come faccio a veramente ad avere sotto mano una serie di autori straordinari. Quindi io sarei dell'opinione, se se Fiordaliso è d'accordo, che quando avrà terminato la lettura di Golden Boot ne riparleremo volentieri, così da condividere anche la sua opinione con quella che insomma abbiamo appena condiviso. Io magari non torno a Bruxelles, ma per telefono facciamo bellissimo queste cose. Che cosa me ne sembra? Fantastico. Io volentieri, guarda, gli brilli. Allora, è giudicato. Fantastico, bene. Bene, comunque, allora io torno dal nostro tema, quindi vi ricordo che stiamo parlando di un libro di Ursula Le Guin che si chiama Il mondo della foresta e si tratta della irruzione dell'umanità in questo mondo di foreste vergini con il solo scopo di colonizzare, con scopo di lucro fondamentalmente, quindi di esploitare tutte queste foreste che oramai sulla terra non esistono e di utilizzare le legna per... soltanto così, per quello che ci serve anche adesso. E ovviamente stiamo assistendo a delle scene che confermano che l'uomo non impara mai, e secondo me comunque non impara mai. Cioè assistiamo al fatto che loro incontrano là una popolazione di esseri di bassa statura che sono più simili alle scimmie. E che hanno una pelliccia di colore azzurrignola e che quindi loro considerano ovviamente e chiaramente inferiori, anche perché i loro modi di comportarsi sono completamente diversi, sono un gruppo molto pacifico che sembra di comunicare in modo un po' diverso. E che comunque non sono molto entusiasti, diciamo, di lavorare per i nuovi colonizzatori, per esploitare le foreste. E poi ovviamente conosciamo anche il loro punto di vista in questo libro, cioè è molto interessante che questo popolo è descritto come uno che è basato sul sogno, che l'uomo ha questo dono del sogno soltanto durante il sonno, effettivamente, e che fondamentalmente il sonno però connette in un certo senso la gente, è come se si accedesse ad una fonte di conoscenza comune, che però per l'uomo non è una cosa cosciente, non è una cosa, diciamo, che si pratica. Invece per questo gruppo di persone, gli abitanti della pianeta delle foreste, invece è proprio il modo di essere, cioè il modo di comunicare, il modo di un po' conoscere il futuro, ma anche di capire che cosa fare in certe situazioni, anche di gestire la rabbia, anche di gestire le situazioni tese. Quindi Possiamo anche dire che questo ovviamente ha un po' le sue radici anche nella nostra filosofia, ben mi ricorda la coscienza comune, si chiamava in italiano, non so, comunque. L'inconscio collettivo. Esatto, l'inconscio collettivo, grazie Paolo. Esatto, mi ricorda un po' questo nostro concetto. Il conflitto. Ma volevo chiedere una cosa, scusami, sì. Ti interrompo, scusami, perché c'era quindi sono gli umani che vanno su questo pianeta o? Sono gli umani che vanno su questo pianeta perché non hanno più risorse, quindi hanno bisogno di esplorare altri mondi. D'accordo, una sorta di colonizzazione di un sì, del far far east, del west, far, non far, so quale far planet, del far far planet. Quindi il conflitto comunque è nelle radici di questa situazione, e io non vi vorrei dire come finisce, non vi vorrei dire come finisce, ma comunque vi vorrei dire dire che comunque anche questo popolo cioè si fa una riflessione su come certi atteggiamenti possano anche inquinare un modo di essere, come la responsabilità, diciamo, nell'avere contatto con nuove culture, anche si può fare una riflessione anche in questo senso, quanto sia anche rischioso dal punto di vista di, diciamo, inquinare qualcosa che in un certo senso è perfetto, sta funzionando in modo organico, e di introdurci dei nuovi concetti che però possano essere distruttivi anche per questa comunità. Le figure umane che riconosciamo nel libro sono proprio dei classici, diciamo che non ci sono tante sorprese, ci sono quelli che sono praticamente, vogliono semplicemente andare avanti, c'è la figura dello scienziato che invece ha cercato di capire questo nuovo mondo e che sta cercando anche di costituire un po' un ponte fra le due comunità, e il resto non ve lo voglio dire, semplicemente non ve lo voglio dire. Allora, ricordiamo autore e casa editrice non ve lo ricordo mai, devo confessare, io leggo un sacco elettronicamente e quindi vabbè, allora navigate in internet, andate su googlate googlate Ursula K. Le Guin, Il mondo della foresta. Bene, questo è in versione elettronica, detto, quindi è un ebook, oppure si trova anche in paperback? Ma si trova ovviamente anche su paperbook, e anche tradotto in italiano, quindi proprio non c'è problema di accedervi. Io semplicemente sto usando questo medio perché, uno, ho bisogno di leggere in ungherese, altrimenti mi italianizzo completamente e questo non può succedere. Questo può accadere nei limiti del rispetto della tua ungherosità. I colori della bandiera sono gli stessi, Scusa? I colori della bandiera sono gli stessi. Sì, specialmente per me che ho l'orientamento un po' sballato. E così che è successo, amici. Esatto, quindi ecco, invece il libro così prendo nota, l'autore che mi hai consigliato l'ultima volta? Non ti chiedo gli ultimi mesi, ma almeno l'ultima volta. L'ultima volta ho molto, così brevemente parlato di Ludmila Ulitskaya, che sicuramente ci tornerò. Okay. Perché l'altra volta ci ha preso un po' la passione, abbiamo parlato a lungo. Ti prometto che la settimana prossima ti darò 20 minuti. Oddio. Dai, a me, allora, con questa promessa io sono emozionata, mi dovrei preparare seriamente la prossima settimana su Ludmila Ulitskaya, e quindi forse facciamo una bella discussione sulla fondazione di Asimov. Perché no? Sulla sua applicazione sulla crisi economica di adesso. Bene, sono d'accordo, aggiudicato. Ecco. Io ringrazio tutti coloro i quali hanno avuto la bontà, la pazienza, la gentilezza di telefonarci, ovviamente di ascoltarci, quindi salutiamo tutti coloro i quali sono in ascolto questa sera. Saluto Dani M in regia. Buonasera a tutti. La nostra Fiordaliso. Grazie. Il nostro George, che non è potuto essere qui con noi, ma tornerà martedì prossimo. Ovviamente Paolo, che è rimasto con noi tutto il tempo qui questa sera. E soprattutto insomma, in bocca al lupo, buona fortuna e manteniamoci in contatto. Ma certo, sì, anche perché dobbiamo fare questa cosa via telefono fra poco. quindi appena Imola avrà terminato. Mare D vi saluta, vi augura un'ottima, speriamo calda settimana, e vi aspetta martedì prossimo. Ciao! Ciao.